Yours was... Sentite, d'ora in avanti niente più Guns N' Roses e Soup Dragons, capito? Vi voglio a dieta stretta di Soul, James Brown a colazione, Otis Redding a pranzo, Smokey Robinson a cena e Aretha per gli spuntini fuori pasto. Il Soul ha il ritmo del sesso e anche il ritmo della fabbrica, ha il ritmo dell'operaio, del sesso e della fabbrica. Il soul è musica che il popolo capisce. Certo, è musica semplice, ma ha qualcos'altro, qualcosa di speciale. È onesta, ecco, è sincera. Non è musica stronza. Ha il coraggio di dire che viene tutto dal cuore. Certo, c'è un sacco di musica che dà piacere, ma il soul dà più di questo. Il soul ti porta lontano, ti afferra per le palle e ti tira fuori dalla merda. Ciao a tutti e a tutte, ben trovati a questa nuova puntata di Soul Time qui sulle frequenze di Radio Wombat. Iniziamo questa puntata con un gentile e apprezzatissimo omaggio da parte dei New Color, gruppo di Bologna che abbiamo ospitato l'anno scorso al CSA Next Emerson proprio per la serata di lancio di questa trasmissione di Soul Time, serata in cui si esibirono appunto i New Color con a seguire un DJ set del sottoscritto insieme al mega gruppo degli Emerson Setters Sound System. Allora, il buon Jacopo mi ha omaggiato del loro ultimo 7 pollici uscito il 16 dicembre 2017, quindi pochissimo tempo fa, e ve lo voglio proporre, lo ascoltiamo insieme, ci andremo ad ascoltare sia il lato A che il lato B di questa grande formazione bolognese fondata nel 2012, che appunto si esibisce da diversi anni all'interno della scena soul, con l'obiettivo, leggo dalla loro biografia, di evolvere il linguaggio della musica soul con un sound solido ma nuovo che non risulti una semplice copia di quello degli anni 60 e 70, soul che comunque rimane ovviamente di chiara ispirazione. I New Color hanno un proprio repertorio originale e appunto a dicembre sono usciti questi due brani sul lato A e sul lato B dei New Color, e iniziamo con l'ascoltarci il lato A con il brano che si intitola Why Did We Say Goodbye. Loro sono i New Color. We'll be right back. left me all alone. The road is hard and long, and my steps are weary without you, darling. I try to find my way, but I'm falling on my knees. Why did we say goodbye? Why did you go? Questa era la bellissima e stilosissima Why Do You Say Goodbye dei New Color. Il tempo, ecco qua, di girare questo 7 pollici, eccolo, e siamo al lato B con il pezzo Piece of My Heart. Ne approfitto per ricordarvi che se vi sta piacendo questo disco potete trovarlo direttamente a Bologna se passate di lì o siete di lì all'ascolto presso l'Associazione Musicale Culturale Vecchio Son e al Belmeloro Vinyl Shop. Altrimenti potete contattare i ragazzi dei New Color direttamente sulla loro pagina Facebook al nome New Color appunto, e ordinarlo che ve lo spediscono. Quindi ci ascoltiamo Piece of My Heart sul lato B, New Color. Ok, rieccoci in studio. Questa è Radio Wombat e state ascoltando Soul Time, la trasmissione di Radio Wombat che si occupa di musica soul con un particolare occhio di riguardo al Northern Soul. Ci siamo ascoltati il nuovissimo fresco di stampa 7 pollici dei New Color, gruppo, vi ricordo, di Bologna, con due pezzi davvero molto molto belli di altissima qualità. E proseguiamo con il nostro amato Northern Soul. Vi propongo questo brano di Alice Clark, cantante americana di musica soul, nata nel 1940 a Bedford, Brooklyn, che debuttò nel 1968 con il singolo Say You'll Never, Never Leave Me, tra parentesi, e poi nel 1972 pubblicò il suo unico album per Bob Shedd's Mainstream Records, 15 tracce che rimangono fondamentali per la carriera di Alice Clark. Poi successivamente incise sempre per la Warner Bros. Seven Heart Records il brano You Hit Me Right Where You Hurt Me, una grandissima hit per quanto riguarda la scena Northern Soul. Io ve la faccio ascoltare proprio su questo dischetto arancione Warner Bros. Seven Heart Records. Brano arrangiato tra l'altro da Richard T. Back when I was gone. Oh, Alice Clark con You Hit Me. Proseguiamo la nostra selezione in vinile con Carl Hall. Carl Hall, scomparso a New York nel 1999. Carl Hall, che è stato un cantante americano ma anche attore e arrangiatore musicale. Tra l'altro è stato anche un membro del grande gruppo di Raymond Raspberry, gruppo gospel chiamato i Raspberry Singers, che lavorarono anche per la Savoy Records. Carl Hall lavorò tra l'altro in teatro per tre decenni e registrò inoltre una serie di singoli soul negli anni 60 e 70, partendo con questa attività di cantante soul con un periodo in realtà non molto fortunato sotto la Mercury Records, quando uno dei produttori della Mercury era Quincy Jones. Poi a New York passò sotto l'egidia di Jerry Ragway e registrò diverse tracce, tra cui quella del 1967, Minute Baby, registrando proprio per la Warner Bros, una sottoetichetta della Warner Bros chiamata Loma Records. E noi ci andiamo ad ascoltare proprio questa etichetta gialla con scritto Loma. Ci ascoltiamo Carl Hall con questo brano del 1967 che si intitola Minute Baby. Hey baby, don't you see that I love you baby, but you're just wasting my time. Hey girl, why don't you make up your mind? Listen, if you want my love in, why don't you say you want my love in and mean it baby. Oh, mean it baby. Now listen, if you wanna hold me, why don't you say you wanna hold me and mean it baby. Oh, mean it baby. Ooh girl, don't you ever put me down. Oh, oh girl, love is not for them. Don't take me for a clown. I just wanna love you. Listen, I swear by stars above you, con Minute Baby. Proseguiamo, scusate, è partito un suono che non doveva partire. Proseguiamo la nostra selezione con la grandissima Linda Jones. Linda Jones, nata nel 1944, è scomparsa prematuramente, molto molto giovane, nel 1972. Una cantante soul, anche lei americana, con forti, fortissime influenze gospel. Infatti, nata nel New Jersey, ha iniziato a cantare proprio da bambina nel gruppo gospel di famiglia, gli Jones Singers, già all'età di 6 anni, mentre la sua prima registrazione è stata Lonely Teardrops con il nome di Linda Lane su Cub Records nel 1963. Poi la svolta vera e propria arrivò mentre si esibiva in un club locale di New York, quando fu scovata dal cantautore Jerry Harris, che la presentò al produttore George Kerr ed iniziò a incidere singoli per la Atco Records e la Blue Cat Records, precisamente nel 64 e nel 65. Successivamente poi Kerr la portò sotto la controllata della Warner Bros. Records, la Loma Records, nel 1967, e proprio sotto l'etichetta Loma Linda Jones incise il suo brano di più grande successo, intitolato la ballata intitolata Hypnotize, raggiungendo il 4º posto nella classifica R&B della Billboard, il numero 21 della Hot 100. Questo è stato il suo disco più venduto, ma seguirono anche diversi altri successi. Io vi propongo di Linda Jones un grandissimo brano, molto molto amato dagli appassionati del Northern Soul, brano inciso per la Warner Bros. Records. Linda Jones, dopo le esperienze che vi ho raccontato, iniziò a incidere proprio direttamente per la Warner Bros. Records. Quindi vi propongo questo brano degli anni 70, del 1975, che si intitola I Just Can't Live My Life, tra parentesi, Without You, Babe, Linda Jones. You went away, thinking you only broke my today. I can't live my life Linda Jones con I Just Can't Live My Life. Rimaniamo nel soul della Warner Bros. Records e ci andiamo ad ascoltare il gruppo dei Kyun Heart, sempre appunto su etichetta Warner Bros. Sul lato B, tra l'altro, di questo 7 pollici si trova un altro brano di Linda Jones, A Last Minute Miracle. Io vi propongo questo brano che si intitola Got to Find A Way dei Kyun Heart su questa ristampa in edizione limitata Warner Bros. Del 2005. Kyun Heart, Got to Find A Way. Anywhere I go, say if I'm out where I've never been, or in a place that I'm likely to know, there's only one thing I want to do. I got to find a way to find you. Any time of year, hey, I'm a very patient one. Just as long as the season is near, there's only one thing I want to do. I got to find a way to find you. So I wonder where the wind blows, and once I stopped to watch a tree grow, I've seen a summer turn to fall. I've seen the best, I've seen it all. But it's not, no, it's not what I need, not what's keeping me breathing. Oh, not at all what I need. There's only one thing I want to do. I got to find a way to find you. Hey! Yeah! And so I wonder where the winds blow, and once I stopped to watch a tree grow, I've seen a summer turn to fall. Yeah. I've seen the best, I've seen it all. Yeah. But it's not, no, it's not what I need, not what's keeping me breathing. Yeah. Not at all what I need. There's still just one thing I want to do. I've got to find a way to find you. Got to find a way now, baby. Got to find a way to find you. Yeah, my, my, my, my, my, my. Got to find a way to find you. Well, been a looking all day now. Got to find a way to find. Won't you help me find a way? Ok, rieccoci in studio, proseguiamo. Proseguiamo con la musica e ci ascolteremo le The Blossoms. Blossoms, un gruppo di ragazze americane originarie della California. Durante il successo poi raggiunto durante gli anni 60, la formazione del gruppo consisteva in Darlene Love, Fanita James e Jen King. Sebbene il gruppo avesse una carriera discografica a sé stante, erano famose per essere il gruppo che ha registrato il successo numero 1 Is a Rebel, anche se in realtà questo grande successo non fu mai attribuito, almeno non fu attribuito durante gli anni 60, durante il periodo di questo incredibile successo a loro, alle Blossoms, ma il produttore Phil Phil Spector. Non si sa bene come mai corrono diverse voci, le attribuì alle Crystals, che in realtà con questo brano non c'entravano assolutamente nulla. La carriera delle Blossoms iniziò a Los Angeles, appunto in California, mentre le ragazze erano alle scuole superiori, precisamente nel 1954. Originariamente il gruppo in realtà era un sestetto e cantavano per semplice divertimento e si chiamavano in realtà le The Dreamers. Il gruppo originariamente in realtà cantava Spirituals, perché due dei membri di questo sestetto avevano genitori contrari al fatto che le loro figlie cantassero rhythm and blues, diciamo così, profano. La carriera delle Blossom è stata molto molto lunga e raggiunsero grande successo appunto durante gli anni 60. Poi nel 1959 si ricorda anche il fatto che il gruppo ha fornito, diciamo così, le voci di accompagnamento al grandissimo successo di Sam Cooke, Everybody Loves to Cha Cha Cha. Ebbene sì, i cuoretti erano proprio delle Blossoms. La loro carriera è durata tantissimo e è durata fino ad oggi, insomma sono tuttora in attività e durante gli anni hanno inciso davvero tantissimi brani, di cui diversi molto molto belli. Stasera insieme ci andiamo ad ascoltare delle Blossoms, questo brano che si intitola That's When the Tears Start, scusate, That's When the Tears Start, brano del 1965, inciso per l'etichetta Reprise Records, e scritto tra l'altro dal grande Van McCoy. Quindi ce lo andiamo subito ad ascoltare. Loro sono le Blossoms, il brano si intitola That's When the Tears Start. Queste erano le Blossoms con la bellissima That's When the Tears Start. dando un'occhiata all'orologio e alla piletta di dischi qui davanti a me, direi di proseguire abbastanza velocemente perché ho ancora qualche brano da proporvi e le lancette corrono. Vi propongo questo gran brano di Bob Soprano che si intitola Hey Girl, stampato dalla Musical Records per la serie New Talent Series. Hey Girl, Bob Soprano. Tell me what you're doing there, pretty girl with the long blonde hair. Hey, hey, hey, girl, walk on by. I don't want to know the reason why. Hey, girl, yeah. This love, why should it end in pain? Hey, hey, girl, now you've gone, there's no use in me, keep going on. Hey, girl, Soprano con Hey Girl. Il prossimo brano, sì, più o meno guardando appunto l'orologio di cui vi parlavo prima, ne rimangono giusto un paio, quindi vado abbastanza veloci e vi propongo Bob Brady ed Conchords, gruppo formato a Baltimora nel 1964. In realtà i Conchords nella formazione originale non includevano Bob Brady, mentre la parte vocale era affidata a George Layfield. Nel corso degli anni questo gruppo ha cambiato diversi componenti si è esibito fino al esattamente al 29 dicembre del 1970. Poi diversi membri dei Conchords si sono riuniti nel gruppo Pen Lucy, mentre Brady ha continuato a lavorare per la società di consulenza musicale Air. Io di Bob Brady ed Conchords vi faccio ascoltare questo pezzo su etichetta Chariot del 1969. E il brano si intitola It's Love. I see, I'm believing. There's no doubt about it. Brady and the Consorts con It's Love su etichetta Chariot. Quindi dopo questo brano di questo gruppo che all'epoca veniva definito, diciamo, dagli appassionati di musica soul, il soul dagli occhi azzurri, ci andiamo ad ascoltare un ultimo brano per questa puntata, un ultimo brano. Ci ascoltiamo i Soft Tones, gruppo maschile americano di musica ovviamente soul della città di Baltimora nel Maryland, molto conosciuto in particolare per le loro registrazioni degli anni 70. Lavorarono in particolare per l'etichetta newyorkese Avco Records, che poi in seguito fu ribattezzata H&L Records, dai primi anni 70, pubblicando 3 album e una dozzina di singoli. Le lancette corrono. Io vi ricordo che anche per questa puntata, a breve, fra 1-2 giorni al massimo, potrete trovare il podcast sul sito di Radio Wombat, wombat.noblogs.org. Io vi lascio con gli Soft Tones, con il pezzo che si intitola Guns, ovviamente su etichetta Abco. Alla prossima e ciao a tutti e a tutte. We'll be right back. an easier way out. Tell me what it's all about. We've got to stop this tragedy and make life deeper humanity. Turn in the night, the dust, the dawn. Shoot 'em up, shoot 'em up, shoot 'em up.